Nessuno di noi mai ha pensato di rimuovere l'allenatore e non lo faremo. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Il Napoli è avanti! Avanza Hamsik, Higuain li lascia spazio. Hamsik! Terzo gol consecutivo dello slovacco! Prova il giro! Un gol spettacolare di Manolo Gabbiadini! Gli basta poco, la sua firma però è sempre d'autore! Fa piacere, mi fa piacere per la soddisfazione che può dare ai napoletani, però finisce lì, è un qualcosa che non esiste, quindi l'effetto è molto limitante. Bisogna stare attenti, perché l'ultima volta abbiamo raggiunto la prima posizione abbiamo fallito completamente la partita successiva, e quindi bisogna prenderlo per quello che è, vale a dire un puro dato statistico, ma che non ci dà nessun vantaggio. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binder in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. C'è un tema che si è ufficialmente aperto con la giornata di ieri, con il Napoli campione d'inverno e con tutto questo che significa per statistiche precedenti, 7 volte su 10 significa scudetto, ma anche di più, perché con la Serie A 20 squadre, 100%. Quindi Napoli potrebbe anche aver vinto più di mezzo scudetto ieri, però c'è la rimonta della Juventus, ci sono Inter e Fiorentina che fanno fatica. Insomma, la domanda che vive da ieri sera è questa: siamo davanti a un duello tra Napoli e Juve per lo scudetto, e chi è la più forte? È più forte il Napoli che ha Higuain, che è il migliore di tutti, oppure la Juventus che senza i regali di settembre sarebbe prima per distacco? E forse ha ragione Sarri dicendo che non è vero che c'è equilibrio, c'è semplicemente che la Juventus ha fatto un regalo a tutti all'inizio. 800 24 00 24 per prenotare e intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Nel lunedì in cui si piange David Bowie, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene, c'è il grande tema, noi ieri abbiamo cominciato ad accernarlo, ma non conoscevamo ancora il risultato di Sampdoria-Juventus, che poi è arrivato, è stata la nona vittoria consecutiva, è stato quasi il completamento della rimonta. Io non so, io continuo a ritenere che il Napoli sia la squadra più forte, la favorita, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo, però è anche vero che senza quei regali lì all'inizio forse oggi parleremmo del solito campionato dominato dalla Juventus. Sì, anche se pure il Napoli non è partito bene, quindi alla fine questo discorso è vero, secondo me Sarri fa benissimo a farlo, ha un suo fondamento, non ci sono dubbi. Però c'è anche il Napoli. Il Napoli è partito con 2 punti nelle prime 3 giornate, quindi a meno 7 dall'Inter, tanto per fare un paragone, e ha recuperato. Quindi la verità è che è un po' il paradosso, che il girone d'andata e quindi il titolo di campione d'inverno e il secondo posto vanno a due squadre, ovviamente il secondo posto che segue con l'Inter, vanno a due squadre che avevano cominciato malissimo. Il duello per me è questo, anche se l'Inter, proprio perché io non la capisco fino in fondo, nel senso che non sono ancora riuscito a inquadrarla completamente, per questo a maggior ragione non la escluderei assolutamente dalla lotta, perché comunque ha tanto talento. Ieri ha perso una partita che non meritava di perdere, altre volte ha vinto delle partite che forse non meritava di vincere. Sì, tra l'altro il paradosso, Pierre, che ne ha perse 3 delle ultime 6 e 2 delle 3 che ha perso a Napoli e ieri sono forse le due partite migliori di tutto il campionato. Sì, anche se la partita di ieri, secondo me, poi se poi ci andiamo più nello specifico, è una partita dove ci sono state luci ed ombre, nel senso che è vero che l'Inter ha avuto tante occasioni e secondo me ha fatto di più del Sassuolo, se andiamo lì a valutare tutto quello che è successo. Però è anche vero che le occasioni del Sassuolo ce l'ha avute, soprattutto nel primo tempo. Andanovic comunque è stato un grande protagonista, si è beccato il solito grande voto in pagella, quindi è stata una partita molto bella, veramente molto bella, quella di San Siro dal punto di vista dello spettacolo, E quindi insomma non sono d'accordissimo nel dire che è stata poi così, così bella l'Inter. Sì. Certamente ha fatto qualcosa in più del Sassuolo e non meritava di perdere, così come altre volte non meritava di vincere. Però è una squadra che io ripeto, proprio perché faccio ancora un po' fatica a inquadrarla, che ci tengo a precisarlo, non è una cosa denigratoria, anzi. No, però è evidente che Inter e Fiorentina oggi, leggendo la classifica, non solo, sono due storie diverse, ma si fa anche fatica a inserirle in quel duello lì, quello tra Juve e Napoli. Poi magari fra 15 giorni siamo qui a parlare di una storia diversa. Oh, a proposito, l'Inter secondo me Capuan sa di più. L'Inter secondo me ha dei margini per poter lottare. Della Fiorentina sicuramente, anche semplicemente come profondità di rosa. Aspetta Pier, però c'è anche il fattore C, perché per la seconda volta dopo Carpi io comunque ho visto la Juve arrivare un po' in apnea al 90° minuto, fattore C che è anche quel rigore lì su Ivan di Rugani che Mazzolini non ha fischiato. Ieri il tema arbitrale invece l'ha tirato fuori ancora con forza Mancini, io ritengo sbagliando. Però da rosso per Seminonella. Visto che il Doverico noi non ne sbaglia una, è sempre. Allora, secondo me andava ammonito D'Ambrosio forse lì. Allora, secondo me sbagliando, perché poi anche oggi le moviole dicono che Berardi non andava espulso e Mancini da troppe settimane parla della questione arbitrale. Però è un tema che è inutile girarci intorno, è stato rilanciato e da qui in poi diventa decisivo. Sì, assolutamente. Assolutamente. Il tema sarà decisivo, potrà essere decisivo, non ci sono grandi dubbi. Anche a me non è piaciuta moltissimo l'uscita di Mancini, anche perché poi appena 3-4 giorni prima c'erano state invece delle altre situazioni di tipo diverso ad Empoli, no? E quindi da questo punto di vista secondo me non è stata una mossa intelligentissima. O meglio, non è stata una mossa elegantissima. Detto questo, poi Mancini che una parte del suo lavoro di allenatore che sta facendo benissimo, lo dico senza se e senza ma, cioè Mancini sta facendo una grande stagione, così come sta facendo una grande stagione Paolo Sousa, è anche nell'allenare l'opinione pubblica, nell'indirizzare le attenzioni della stampa, e così come era successo dopo Napoli-Inter con quella polemica abbastanza feroce, abbastanza sì, forte, anche ieri ha voluto fare così. Potrebbe essere interpretato come un segnale di nervosismo, oppure potrebbe anche essere semplicemente interpretato come un segnale di, la voglia di indirizzare l'opinione sì, pubblica, di provare a lucrare in senso Mourinho, fisiologico qualcosa, ma anche Sarri l'ha fatto nelle scorse settimane, sì, se ricordi. Siamo quasi al traffico, questa è stata anche la domenica, o meglio la giornata degli allenatori un po' così. Allora, Garcia praticamente esonerato, anche se si trova a Zurigo con Florenzi, l'amministratore delegato della Roma Zanzi, per la cerimonia del pallone d'oro, ma cercheremo di darvi da qui alle 15.30 anche tutti gli aggiornamenti. E io ritengo, se Pallotta finalmente ha deciso di staccare la spina, ha fatto bene, perché la Roma è stata sin troppo prigioniera di Garcia, del suo contratto, del sogno di Antonio Conte, non lo so. Poi la DN Kronos, che pochi minuti fa ha battuto la notizia che Silvio Berlusconi avrebbe incontrato Marcello Lippi a Roma, e anche questo cercheremo di approfondirlo. E poi Pier, ti faccio sentire questa cosa qui, perché ieri è andato in scena l'ammutinamento di Ballardini, che si è rifiutato di allenare, e poi la rivolta dei giocatori, Sorrentino. La cosa che credo che è venuta fuori oggi, che la squadra ha giocato da sola, la squadra ha vinto, la squadra ha giocato senza aver preparato nel miglior modo possibile la partita, una partita decisiva, una partita che vale 6 punti, non ne vale 3, però la squadra ha dimostrato di avere un cuore. Oh, io non so se ti è mai capitato di vedere una cosa così, in tanti anni. No, adesso c'è il traffico, poi ne parliamo, vai. Però è incredibile. 800 24 0024, vi aspetto. Tutti convocati. Parte Higuain, e sono 17 in campionato ed è 2-0 per il Napoli, alla mezz'ora. Higuain, un fenomeno quel numero 9 lì, 0-4, Higuain ne fa due. Sempre che si può e la matematica lo permette, sempre si deve pensare così, ma come ti dico, il campione d'inverno non serve per niente, serve quando sei campione a maggio. Il campione d'inverno non serve per niente. No, stiamo tranquillo, penso che ci meritiamo questo momento, stiamo lavorando tantissimo e stiamo lavorando bene. Comunque adesso dobbiamo sfruttare, stare calmo, tranquillo. Come ho detto, manca ancora 5 mesi del campionato e speriamo continuare così. Oh, Pier, ti leggo questo messaggio, è meraviglioso, 349-238-6666, non vi illudete pennivendo i militanti anti-juventini, la Juve vincerà anche quest'anno. E poi anche un altro ci dice, ma quale rigore provocato da Rugani? Ma poi ne parliamo, è 800-24-0024, Massimo Mauro, ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi. Non so se vince la Juventus o vince il Napoli o vince qualcun altro, che idea ti sei fatto tu di questa prima metà del film? Hai visto il tweet di Allegri ieri? Vince una ex squadra di Massimo Mauro. Sì, comunque vada. Beh, se vince l'Inter, no. Come casco, se sono solo Juventus e Napoli, io casco bene, nel senso, no, perché mi fa piacere se vince l'uno o l'altra. Mi sembra che meriti di più il Napoli per come è arrivato al primo posto in classifica in questo girone d'andata. È arrivato con un calcio esteticamente bello, oltre che insomma, redditizio, perché davvero nessuno pensava, no, che Sarri potesse stravolgere con solo l'ingresso di 3 uomini nuovi dall'anno scorso tutto quanto, soprattutto dopo le 2 partite inizio campionato. Devo ma dire per che primi ieri, napoletani non ci pensavano. Sì, ieri hanno fatto un lavoro straordinario, no? Perché hanno vinto con grande personalità su un campo non proprio semplicissimo, perché il Frosinone sta lottando per rimanere in Serie A, ha pareggiato a Torino con la Juve. Insomma, non era così scontato che ieri il Napoli passeggiasse, ma con umiltà, perché non ha offeso nessuno, ma ha giocato veramente una partita col piglio da grandissima squadra. Certo che se Higuain fa doppia la cifra dei gol che ha fatto nel girone d'andata, quindi arriverebbe a 36, onestamente è difficile pensare che non possa vincere lo scudetto il Napoli. Sì, ma anche con qualche gol in meno. Tra l'altro io credo, metto qui questo tema, si corre anche un po' il rischio di pensare che il merito del primo posto del Napoli sia tutto quasi di Higuain, dei suoi 18 gol in 19 partite, li stiamo ripetendo a memoria da ieri. Non era neanche solo di Maradona, quindi figuriamoci se è solo di Higuain, insomma, no, onestamente questo no. Noi vincemmo l'ultimo scudetto a Napoli, Maradona non giocò le prime 8 partite, il Napoli era primo in classifica, cioè voglio dire, quindi il Napoli aveva un gruppo che giocava contro l'Inter e contro il Milan di Sacchi, insomma c'era una bella concorrenza, quindi Diego sarebbe più d'accordo con me su queste dichiarazioni, perché aveva grande stima dei suoi compagni di squadra. E quindi il Napoli e Jorginho, io l'ho detto all'inizio, il Napoli ha una linea centrale di squadra straordinaria, che è la più forte del campionato, che sono Reina, Koulibaly, Jorginho e Higuain, a mio avviso. Perciò il Napoli riesce ad essere primo in classifica. Sì, voi sapete, tu sai, Pier, che ieri pomeriggio Pierpaolo Marino, subito dopo Frosinone e Milan, ci ha fatto questo paragone tra Higuain e Maradona, che un mesetto fa Ottavio Bianchi ci aveva detto essere una bestemmia, mentre ieri Pierpaolo Marino l'ha argomentata, secondo me, in maniera interessante. Ve la faccio sentire. È quel giocatore che dà la sicurezza alla squadra che ci sono le caratteristiche per vincere. Questo è un fattore che vedo manca ad esempio all'Inter, alla Fiorentina naturalmente, perché Kalinic ora si è un po' diciamo affievolito, e forse potrebbe averlo la Juventus in Dybala, però sembra un giocatore che non ha ancora la struttura, la consistenza di Higuain. Higuain è un po' proprio come Diego, perché poi questi, sapete che io sono un appassionato del calcio argentino, questi giocatori, questi fuoriclasse argentini, quando lo sono anche dei paladini della gente e della squadra che rappresentano, ed infatti anche nelle dichiarazioni si vede il trasporto di questo giocatore nei confronti della propria squadra e della propria piazza. Poi il feeling fra gli argentini e Napoli è particolare. Allora, a parte la retorica del feeling tra gli argentini e Napoli, però questo paragone, io non so cosa ne pensate voi, tra Maradona e Higuain e il peso di Maradona e il peso di Higuain, è un paragone interessante. Massimo, tu che hai vissuto quell'epoca lì. No, se lo contestualizziamo a come ha fatto intelligentemente Marino, alla dimensione di oggi tra le due squadre, tra Higuain con questa squadra e Maradona con quella lì, ci può stare, ma non c'è, Marino ancora più intelligentemente non fa un paragone tra i due giocatori, fa un paragone fra quello che significano, che ha significato Diego e che si significa adesso Higuain per questo Napoli, questo sì ci può stare, sul piano tecnico e sul piano diciamo proprio di come di che struttura sono i due giocatori non si possono paragonare. Sì, diversi. Pier, tu cosa ne pensi? Io penso che sia vero quello che dice Pierpaolo Marino sul fatto che Higuain è un leader di questa squadra, lo è anche Reina, ed è un leader tecnico e caratteriale. Chiaramente nessuno meglio di Massimo Mauro, di chi giocava in quella squadra, può sapere cosa è stato Maradona nella sua diversità. A me questo sembra, rispetto alla squadra di Maradona, che pur aveva certamente altri grandi giocatori come Careca, come Giordano, come Carnevale, come tutti gli altri, perché non si vince mai da soli, nemmeno se è il più forte di tutti. Questa mi sembra una squadra che per filosofia è costruita ancora di più su una logica quasi collettivistica. Non voglio fare un discorso sociologico da quattro soldi, quasi politico, ma Sarri mi sembra da questo punto di vista veramente uno di sinistra nel senso tradizionale del termine, cioè uno che veramente crede nella collettività, nel collettivo e nell'organizzazione di squadra, e in questo è molto sacchiano. A me sembra che Napoli di oggi sia da qualche punto di vista proprio quella squadra lì, quel Milan di Sacchi, nel senso che è una società alla fine con un presidente molto accentratore ma con dei successi professionali evidenti anche in altri campi, con una struttura societaria molto chiara, molto precisa, quella che in questo momento non hanno né il Milan né la Roma, tanto per fare due esempi, e con un'intelaiatura tecnico-tattica straordinaria basata su un grande uomo di campo, un outsider che in pochi mesi è riuscito a sconfessare tutte le etichette e le prudenze e le titubanze che si potevano avere, perché magari lo si vedeva in tuta nelle vecchie foto col Sansovino e si pensava che non fosse adatto. Sì, ma anche senza girarci intorno, le battute che facevano gli stessi tifosi del Napoli a settembre, quando Sarri insomma era un po' considerato come uno atterrato per caso sul pianeta Napoli, lo stesso Maradona che adesso ha detto, Massimo, Pier, che in caso di scudetto tornerà in città per festeggiare come un vero tifoso, insomma aveva parlato malissimo di Sarri, tutti parlavano male anche di De Laurentiis, e io ripeto la provocazione, secondo me i tifosi del Napoli dovrebbero fare una statua De Laurentiis in Piazza del Plebiscito, mettersi in fila e chiedergli scusa, perché soltanto uno come De Laurentiis poteva pensare di tenere Higuain, di tenere questa intelaiatura dopo due anni senza Champions League, quindi gran parte del merito va lì anche. Sì, è vero. E De Laurentiis non piaceva e non piace forse ancora ai napoletani. No, però quando si giudica poi l'attualità, il momento per momento, De Laurentiis in alcune situazioni però diciamo ha un po' esagerato, cioè non ha fatto il presidente che è funzionale, utile a fare qualche più un punto in più alla fine dell'anno. Per esempio, secondo me, fare meno Twitter è una cosa che è utile anche al lavoro dell'allenatore e della squadra. Cioè, questo, secondo me, è molto molto importante, che spesso è sottovalutato dagli uomini che non hanno fatto calcio. Invece, qualsiasi respiro fa il presidente può essere un danno alla squadra. E perciò quest'anno, secondo me, c'è una gestione quotidiana e settimanale perfetta da parte sia della società, sia dell'allenatore e dei giocatori, e guarda caso il Napoli è prima in classifica. Io a questo ci credo molto. Poi è chiaro che... Cioè l'idea che De Laurentiis, che fa mezzo passo indietro dal punto di vista mediatico, comunicativo, alla fine stia facendo il bene del Napoli. Assolutamente sì. Posso chiedere a Massimo che ne pensa della famosa polemica Boban? La riassumo. Io ho una stima per Boban infinita, nel senso che è veramente, fra tutti i commentatori che quasi mai dicono cose banali, è veramente, secondo me, uno dei fuoriclasse assoluti, perché è veramente da sempre dei punti di vista molto originali. E credo che nel dire che ci potesse essere un rischio per un effetto di troppo festeggiamento, dicesse una cosa in assoluta buona fede, che lui negli anni di Milanello, quindi una città diversa, magari meno viscerale nel rapporto con la squadra, ha sperimentato. Però forse Napoli è un'eccezione da questo punto di vista. Cioè, forse a Napoli ci sono regole che sono un pochino diverse rispetto a quelle che hanno funzionato benissimo nel Milan di Boban a Milanello. Massimo. Sì, Piero, sono d'accordo, però un po' di acqua sul fuoco non è, cioè, aiuta sempre, dici. Io so che aiuta, proprio per quello che hai detto tu, c'è una tale passione, una tale che si può travisare la vittoria, si può dare un significato esagerato, e nello sport è sempre sbagliato, sempre sbagliato. O hai piedi per terra oppure rischi le brutte figure. Io adesso non voglio tornare indietro e non voglio darti una pugnalata, ma il giro di campo... te lo ricordi, sì, quello della Roma contro il Lecce, sì, prima, sì, della, sì, partita? No, ma sono cose assolutamente, cioè, il giro di campo assurde, porta sfiga, cioè, secondo me, Piero. Il giro di campo si fa quando si vince. Sì, non prima. Non prima. Alla Juve questa lezione l'hanno imparata a memoria. Va da dentro il campo, sì, dice lui, adesso c'è questa moda di andare da una parte e dall'altra e salutare. Bene, il giro di campo mi sembra proprio di quelli che hanno vinto il campionato. No, ma il giro di campo. Non so come dire. Sì, alla Juve questa lezione l'hanno imparata a memoria. Pier, poi insomma c'è la borsa. No, ma io sono d'accordo, sono anche convinto che poi Boban questa cosa l'abbia detta in maniera assolutamente costruttiva. Ma ci mancherebbe, certo. E anzi, proprio per dare un consiglio dall'alto della sua esperienza, credo che ogni ambiente, e Massimo da questo punto di vista è perfetto perché ne ha vissuti, diciamo, tre, giocando con tre geni, questi tre geni li ha vissuti in tre ambienti completamente diversi, no? La sana, operosa, vincente provincia italiana di Udine, la passione viscerale 365 giorni all'anno di Napoli e l'abitudine a vincere di Torino, tre storie completamente diverse. Forse ogni ambiente ha la sua dinamica, e poi se alla fine i leader di questa squadra, gli Higuain, i Reina, gli Amsic, che sono giocatori abituati comunque a vincere e a vivere notti come queste, sono i primi che li vedi saltare, allora vuol dire forse che proprio questo è un elemento importantissimo. Sì, no? che c'è qualcosa in più, può essere un elemento positivo. La prudenza aiuta, e se sì, guardiamo, ma se anche guardiamo un po' di sana scaramanzia, anche un po' di sana scaramanzia. La Juve è proprio questo, la forza della Juve è nella capacità di vincere le partite quasi senza faticare, quasi senza soffrire. Non hai mai la sensazione, in queste 9 partite, io ne ho fatte parecchie di tre gol, questa Juve, non hai mai avuto la sensazione che la Juve sia uscita dal campo come se avesse fatto l'impresa della vita. Beh, insomma, diciamo che però ieri, così come a Carpi, il fischio del 90esimo è arrivato ben atteso da Allegri, abbastanza nervoso su una Juve che ha rischiato nel finale, però fa parte del calcio. Poi vi faccio sentire Buffon in una frase che secondo me è il manifesto dello juventinismo. Intanto saluto Massimo Mauro. Ciao Massimo, grazie. Ciao, complimenti a voi. Grazie, ciao. Massimo. 800-24-00-24, insomma, chi è la favorita di questo scudetto? Chi è la squadra più forte? Il Napoli, che primo è Higuain, o la Juve delle 9 vittorie consecutive e della grande rimonta? C'è la borsa, torniamo subito. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Ora per Bonucci che prova a inventare, Pogba, 1-0 Juve, Pogba, un capolavoro. Dybala verticalmente su Khedira, 2-0 Juve, l'imbucata perfetta, la freddezza assoluta, il raddoppio bianconero. Ci credevo perché la squadra doveva per forza migliorare, soprattutto doveva migliorare i singoli giocatori. Ora rispetto all'inizio dell'anno abbiamo dei giocatori completamente diversi, da Dybala, da Zaza, dallo stesso Khedira, dallo stesso Asamoah che è rientrato bene, Sturaro è cresciuto molto e Alexandro ora si gioca il posto sulla fascia con Evra, e Rugani stesso, è normale che quando poi dopo migliorano i singoli giocatori migliora la squadra. Tanti ci segnalano che che il Napoli nel girone di ritorno avrà in trasferta tutte le partite più difficili. Miki, Fabio, intanto ce lo segnalano. Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Lazio, solo Napoli, Milan gioca al San Paolo. Anche l'Inter ha un calendario in cui, a parte praticamente Inter-Napoli, gioca quasi sempre in trasferta. Certo, anche questo è un tema. Poi c'è il tema del mercato, perché vedremo se De Laurentiis farà uno sforzo, se la Juve accontenterà Allegri. 800-24-00-24 oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è un amico che scrive: da juventino dico che il Napoli è la più forte, ma dicevo lo stesso della Roma a inizio campionato, poi la chiave è riuscire ad essere costanti, cosa che la Juve dopo la partenza difficile ha fatto. il Napoli anche, però oggi sono lì, oggi è un duello. Alessandro da Novara, Alessandro. Sì, buongiorno, grazie. Eccoci. Per avermi convocato. Prego. E volevo fare una piccola considerazione prima sulla domanda che avete fatto su chi vince lo scudetto. Sì. E da interista mi fa male, ma secondo me lo vincerà la Juventus. Per due motivi, semplicemente perché per me è la più forte e poi perché quando arriveranno le coppe, l'essere una squadra rodata, abituata a certi meccanismi che saltano fuori con l'impegno doppio, coppe, campionato, la Juve è più forte. Sì, in teoria, Alessandro, ci sarebbe allora anche l'Inter, Pier, cioè, che siccome non fa le coppe ha un vantaggio. Il problema dell'Inter, i suoi interisti ieri erano allo stadio, ieri è stato evidente. L'Inter adesso si mette a costruire, ma il problema era davanti. Non si fanno i gol. Perché se ieri Icardi la buttava dentro a 10 minuti dall'inizio, quando era solo davanti a Consigli, stiamo parlando di un'altra partita. E quindi secondo me l'Inter in questo momento forse farà quello che si era prefissato, quindi terzo posto per me. Ma l'Inter se arriva fra le prime tre fa un campionato leggendario, cioè io l'Inter sta facendo cose meravigliose. L'Inter sta facendo cose meravigliose. Pensare che questa squadra abbia subito così pochi gol dopo la stagione scorsa, a Mancini bisogna fare un monumento, e anche alla società che l'ha secondato in tutta una serie di scelte. Questo è il punto di partenza. Il punto di partenza è importantissimo. Insomma, l'Inter viene da una stagione nella quale non è riuscito ad andare neanche in Europa League, per cui le delusioni di quest'anno sono certamente altre. Le sorprese positive di quest'anno invece comprendono pienamente nerazzurri. Io credo che in assoluto ci sia un po' meno abitudine, cioè che alla fine vincere così tante partite per 1-0 sia da un lato un sinonimo di grande forza mentale, caratteriale della squadra, e anche di capacità di Mancini nel trovare sempre la soluzione, quasi sempre la soluzione. Però è ovvio che quando vinci così tante partite per 1-0 vuol dire che sei sempre su un filo, e qualche volta il filo, per sfiga, per episodi, ti si ritorce contro. Da questo punto di vista mi sembra che Juve e Napoli abbiano una sicurezza un pochino diversa. Sì, sono certamente più strutturate. Domenico da Macerata. Domenico. Ciao. Eccoci. Ciao Pierre, ciao a tutti. Ciao. Dai, Domenico. Considerazioni brevissime. Secondo me non capisco come fa la gente a dire che il Napoli è la favorita o altro. Io credo che la Juve vince tranquillamente il campionato. Detto questo, volevo chiedere a Pierre cosa ne pensa di Paolo Dybala, perché io all'inizio non pensavo era così forte, non conoscendolo. Invece devo dire che mi ha sorpreso veramente tanto, e adesso paragonarlo a Tevez mi sembra eccessivo, però puntini. Sì, però come numeri è anche sopra, Pierre. Tutto il bene possibile. Dybala mi sembra un predestinato, mi sembra un giocatore, lo dico i numeri, che ha dei numeri addirittura migliori di quelli di Del Piero. So che sto bestemmiando, però insomma, voglio dire, considerata l'età, ha dei numeri migliori rispetto all'età, e diciamo il fatto che questa è la sua prima stagione, dei numeri migliori di leggende vere della Juve come Del Piero e Platini, ed è in linea con quello che ha fatto Tevez alla Juve quando è arrivato. Ma Tevez ovviamente è un giocatore molto più strutturato, molto più esperto, quindi Dybala ha delle tecniche straordinarie, ne parlavo anche ieri sera poi post partita, c'erano Cassano, Landucci, Allegri, insomma Dybala è un giocatore fortissimo ed è in questo momento la differenza, come direbbe Sconcerti, no? La forza vera, la chiave vera della Juve, oltre a tante altre cose, fra cui questa abitudine a vincere che è importantissima. Ma poi vedi anche ieri, insomma, che partita ha fatto Khedira, no? In un giorno in cui non c'era Marchisio, la compattezza della difesa, la personalità di Buffon, insomma l'abitudine è straordinaria. Però il Napoli Dybala è diventato cannibale in fretta come tutti gli altri da cui è circondato. Sì. Aspetta che allarghiamo il discorso a Maurizio Crosetti. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a tutti. Perché poi la parola chiave è cannibali. Oggi credo sia il titolo di tutto Sport. Non è sbagliato. I vegani, senza offesa naturalmente, perché questa infelice categoria di persone, infelice dal mio punto di vista naturalmente, sì, senza offesa per i vegetariani e per i vegani, se alla Juve non sei cannibale è meglio che cambi squadra o città. Questo da sempre. Diciamo dal 94, ecco, da quando è arrivato Lippi, di più. Dalla triade che aveva sempre le zanne insanguinate, di più. E adesso quel DNA, diciamo, di denti cavi e di zanne ben lucide è rimasto, e non è solo quello naturalmente, ma senza quello proprio non cominci nemmeno. E poi una volta che è quello deve avere anche il resto. Sì, perché prima di farla bisogna pensarla alla rimonta che sta facendo la Juventus. 28 ottobre la Juventus era dodicesima a 11 punti dalla Roma e a 9 punti da Napoli, Fiorentina e Inter. Oggi la classifica è quella che avete visto. Oh, vi faccio sentire il manifesto dello juventinismo. Buffon ieri, dopo pochi istanti, dopo la fine della partita. Questa è la Juve che oggi è seconda, e per cui se guardiamo gli ultimi anni non è il posto che ci compete, per cui bisogna migliorare. Più cannibale, Buffon o Allegri? Buffon e quelli come lui o Allegri? Cioè, di chi è più il merito di quello che sta facendo la Juventus? Maurizio, Pier? Sono cannibali tutti, e non dimentichiamo che il campionato è aperto ed è molto bello, ed è molto bello che sia aperto, perché la Juve ha dormito più o meno una decina di partite, senza nulla togliere a Higuain, al Napoli, all'Inter, alla Fiorentina. Però insomma, quando la Juve gioca a questi livelli, gli altri stanno dietro, ed è così da 4 anni e un pezzo. Dopodiché il cannibalismo, beh, è un bel tema. Il cannibalismo di Buffon è più antico, perché gioca da più tempo. Allegri non sembra avere l'indole del cannibale, ma è un falso vegetariano, nel senso che tu lo vedi così e dici, vabbè, questo qui è uno che si accontenta anche delle carote, manco per niente. Quindi alla fine, secondo me, sono tutti dello stesso stampo, si fanno sempre delle grandi grigliate. Tu sai, Pier, che poi su Allegri il discorso è aperto. Anche ieri ci scrivevano gli amici da casa, lavora sul lavoro di Conte, vince solo col 3-5-2. Sì, sì, è la cosa che mi irrita di più in assoluto. Allegri è un grandissimo allenatore, punto. Guarda, io divento un fedain, divento un pasdaran, mi faccio quasi schifo, perché invece ci dovrebbe essere sempre equilibrio, e degli errori li ha anche fatti Allegri, ma di fronte a certi messaggi dove sembra veramente che tutte le cose che fa Allegri di positivo siano sempre merito di qualcun altro, mi viene veramente da reagire in questo modo. Allegri è un allenatore che era vincente prima ancora di venire alla Juve. Lo scorso anno ha fatto sì che la Juve abbia vissuto la migliore stagione forse della sua storia. Probabilmente quando ha vinto la Champions League, ecco, l'ha tolto quando ha vinto la Champions League, ma insomma, nella sua storia recente sicuramente la migliore stagione, perché vincere il campionato, Coppa Italia, arrivare in finale, giocarsela quasi alla pari col Barcellona è qualcosa di incredibile. E sta continuando a fare cose meravigliose, e quest'anno la sta svoltando lui, perché è lui che ha cambiato, perché è lui che ha scelto Mandžukić quando tutti volevano Morata, perché è lui che comunque in qualche modo ha favorito l'esplosione. È anche stato capace di ascoltare i senatori, Maurizio, Pier, senza dare l'impressione di essere debole, che è il rischio che si corre. I senatori, scusate, Capello quando arriva al Milan e prolunga il grande lavoro di Sacchi, fa quello che ha fatto Allegri alla Juve. Non mi pare che Capello sia stato considerato o possa essere considerato come un minore. Allegri no, è un grandissimo né tanto meno un debole. Punto, cioè non... Ma tanto lo sai che il dibattito resterà aperto fino alla fine della stagione, tra l'altro con insomma, la figura di Conte che aleggia, perché Conte è un sogno della Roma, del Milan, magari va al Chelsea, però fino a un paio di settimane fa si scriveva anche che andava a Vinovo a riallacciare i rapporti con i dirigenti della Juventus, con tutto l'ambiente. Vi devo fermare, c'è il traffico, poi vi faccio sentire una cosa che parla di un altro club, un altro presidente che sogna Conte. E insomma, l'abbiamo detto all'inizio, ci sono notizie di possibili incontri con un altro grande ex juventino. Se rappelle toujours de sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Lo sapete dove è andato venerdì sera Berlusconi invece di andare a trovare la squadra che era in ritiro a Roma prima di Roma-Milan? È andato al Bagaglino a vedere 50 sfumature di Renzi. Al Bagaglino. Maurizio, non so che riflessione vogliamo fare nel giorno in cui, l'abbiamo detto all'inizio, l'ADN Cronos batte la notizia che Berlusconi avrebbe incontrato Marcello Lippi nelle ultime ore. Sì, sì, per carità, tutto è possibile. È talmente malmesso il progetto tecnico del Milan, e immagino Berlusconi non sappia più a quale santo affidarsi dopo aver tentato la strada degli absolute beginners, no? Dei debuttanti inceneriti, Inzaghi e Seedorf, poi ha scelto l'uomo di polso che pensava potesse rimettere in sesto tutto, cioè Mihajlovic, ma anche questa scelta comunque di maggiore esperienza, di maggiore carisma rispetto ai due predecessori, Sbarbatelli, non ha funzionato. Quindi adesso in effetti non gli resta che provare una vecchia gloria, o comunque un uomo di grande esperienza, perché no? Lippi sembrava un po' stanco delle panchine di club, dopo l'esperienza cinese invece si è ricaricato e ha detto pubblicamente di avere di nuovo una grande voglia, perché poi se sei uomo di campo lo rimani fino all'ultimo dei tuoi giorni, io credo, no? Guardate il trap. Sì, ti capita anche di cambiare idea. Andrebbe anche stasera, domattina, certo, di nuovo in campo. Certo. E quindi perché no? Dopodiché si diceva che Lippi fosse una minestra riscaldata già quando tornò per la prima volta alla Juve, poi alla faccia della minestra si mangiarono un bello zuppone di scudetti di posi della Juve, quindi... sarebbe una suggestione, ma resto dell'idea però che non si cambiano i corsi e le tendenze di una squadra in crisi cambiando un allenatore o recuperando anche un grande nome, serve ben altro, e sembrava averlo trovato questo ben altro il Milan, spendendo quasi 90 milioni di euro al mercato. Non è bastato neppure quello, la squadra è piena di incongruenze, di giocatori sopravvalutati, di doppioni, di vuoti, e temo che neanche, ma non solo Lippi, ma se tornasse, non so chi potrebbe essere, Vittorio Pozzo, Berzot, Tacchi, però Maurizio, nessuno. È anche vero che in un'estate anche con 90 milioni non si coprono i buchi di 3-4 anni di mancati investimenti, poi c'è comunque un senso di precarietà assoluto, Mihajlovic, e lo abbiamo capito, Pier, anche senza leggere i giornali di oggi, salvo quasi per inerzia, per il pareggio, poi vediamo, dopodomani c'è il Carpi, poi chissà come va a finire. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Maurizio Crosetti. Pier, allora, ci sono Pietro dalla provincia di Lodi e Francesco da Verona. Pietro. Sì, eccoci. Buongiorno, ciao. Grazie di avermi convocato. Io volevo collegarmi a quello che aveva detto prima il signor Pardo riguardo all'Inter, che sta facendo una stagione, secondo me, strepitosa, e dobbiamo solo ringraziare noi interisti, Mancini e il nuovo presidente che ci ha messo a disposizione questa squadra finalmente. Però l'Inter, cioè, nessuno deve stupirsi se non arriverà fino in fondo, perché è una squadra, secondo me, per vincere deve prima perdere, fare esperienza, creare l'abitudine a vincere come si vedeva prima. E collegandomi anche a quello che aveva detto l'ascoltatore di prima, interista, su Icardi, che il problema è là davanti, averne di Icardi che fanno 12 tiri verso la porta e segnano 8 gol in un girone d'andata. Sì, Icardi credo sia un falso problema. Pier, come è un falso problema se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto? Al di là che poi ci fai la bocca, se stai davanti per tante domeniche. Sì, io credo che l'ascoltatore abbia perfettamente ragione. L'Inter è forte, sta facendo un campionato importantissimo, e non può essere una sconfitta contro il Sassuolo che cambia il segno. Quindi credo che i tifosi dell'Inter debbano essere strafelici e veramente andare avanti a testa altissima, perché stanno facendo una bellissima stagione. Detto questo, io credo che abbia qualcosa, ripeto, penso che aver vinto così tante partite di poco vuol dire che sei bravo, sei figo, sei capace di gestire la tensione, di trovare la giocata. Però poi rischi. Esatto. Detto questo, l'Inter ha dei margini di crescita. Io ribadisco, ancora non l'ho capita benissimo. Perché? Perché cambia ogni settimana, perché il talento non manca. Adesso, per esempio, c'è un caso Jovetic, Ljajic ieri al Ma anche con Dogbia sta giocando sotto sì, quelle che sono le sue possibilità. Se Mancini trova la somma, cioè se la somma del talento individuale dovesse trovare veramente una quadra importante in questa seconda parte della stagione. Sì, però questa Inter è inferiore alla Juventus e probabilmente inferiore anche al Napoli. Mi sembra assolutamente un passetto dietro a quelle due. Sì. C'è un amico che scrive 349-238-6666 da Juventino, dico mai più Conte. Eppure la Juve ci ha pensato, magari ci sta pensando ancora. Francesco da Verona. Francesco. Buongiorno, Francesco. Eccoci. Da Verona, di Napoli ovviamente. Sì. Napoli. Oggi dovrei essere contento, ma sono, come dice Pardo, schifato. Schifato. Dalla stampa, perché io vorrei capire come mai, anziché festeggiare oppure scrivere di una squadra che da 19 gare tra i primi due posti, dobbiamo condividere la prima pagina della Gazzetta con la Juve, e poi vorrei capire... Ma non ho capito cosa non va bene della prima pagina della Gazzetta, poi tra l'altro io leggo sotto mano la prima pagina del Corriere dello Sport, Napoli campione d'inverno, insomma... Sì, però è una cosa che non riesco a capire... Cosa bisognava scrivere, Francesco? Come si fa normalmente quando si parla della prima classifica, dedicare la prima pagina alla prima classifica. Ma perché? Io vorrei capire, poi aiutatemi voi che siete... Allora, scusa, scusi, Francesco, noi dovevamo fare un'ora intera sul Napoli, o possiamo parlare anche degli altri? No, anzi, io a me piace tanto perché parlare degli altri, però io non capisco che significa quando sento alcuni dei vostri colleghi che non si può festeggiare. Noi tra l'altro, poverini, abbiamo vinto due campionati. Ogni 25 anni fateli festeggiare questi calciatori. Sì, ma non l'ha vinto il campionato, Francesco, perfetto, il Napoli. Perfetto, adesso non farmi fare il difensore di Massimo Mauro, diverso. Ma io con Mauro ce l'ho in modo particolare, per poter capire, voi stessi non ce l'avete numeri da paura, qui c'è una squadra che in 6 anni si gioca i primi 3 posti con Juve, Inter e Milan a turno, e qui stiamo ancora dicendo che è una sorpresa, che non è abituata a vincere quando c'è Reina, Albiol, Caeol, Higuain che non sono stati comprati dall'Empoli, ma da... Sì, guarda Francesco, poi adesso faccio rispondere per Luigi Pardo. Detto che noi dal 20 settembre sosteniamo che Napoli vincerà lo scudetto, quindi veramente siamo inattaccabili da questo punto di vista. Però quando si dice che quando si dice, anzi, tu ci stai, tu stai anche facendo qualche passo indietro, Pier. No, io lo so, ieri lo so. No, il passo indietro lo faccio perché tutto questo, il Napoli ha continuato sulla strada che avevo immaginato, e mi sento molto orgoglioso. È la Juve che ha accelerato. È la Juve. Però Pier, possiamo dire a Francesco che se diciamo che quelli della Juve sono più abituati a vincere, e già questo è un ciclo nuovo rispetto a Isai, Jorginho, Allan, Mertens, Calleon, Gabbiadini, forse tranne Higuain e Reina, a tutti quelli della rosa del Napoli non è che stiamo bestemmiando, anche Allegri rispetto a Conte, rispetto a Sarri. Sì, ma ragazzi, per me è un testa a testa. Oggi mi sembra veramente un corpo a corpo, un testa a testa. Ribadisco, faccio fatica a togliere oggi l'Inter da questa corsa, anche se l'ho inquadrata un po' meno e mi sembra un passetto dietro. E la Fiorentina penso che abbia qualcosa in meno nelle 38 partite. Poi adesso ogni volta uno valuta sulla suggestione dell'ultima partita, no? Quindi adesso la Fiorentina l'ultima partita l'ha persa e quindi tendi a toglierla. L'altro giorno, dopo Palermo, invece sembrava lanciatissima. Però ecco, se dobbiamo fare una valutazione complessiva sulle 38 giornate, mi sembra che l'ipotesi più probabile mi sembra sia quella di un duello Juve-Napoli. Antonio da Matera, Antonio. Buongiorno. Eccoci. Sono... Premetto, non sono juventino. Sì. Sarei felicissimo che il Napoli vincesse lo scudetto per una questione meridionale, tutto qua. Ma vorrei dire a chi si lamenta e riporta sempre Conte nella discussione, Conte è passato, ha dato il suo contributo, ha fatto sì che una squadra l'ha presa da zero, l'ha portata ai massimi vertici, però quando Conte ha chiesto alla dirigenza di ristrutturare la squadra perché dentro non ce l'avevano più, secondo il suo sistema di allenamento, e la resa che chiedeva la Juventus gli ha detto di no. E da lì è successo tutto. Ma però Antonio, sono i tifosi della Juve a riportare Conte nel discorso, averlo fatto per settimane quando la Juve andava un po' meno bene. Pier, abbiamo due minuti. Io so che ne abbiamo già parlato ieri, però ti voglio far sentire Ventura ieri sul caso Quagliarella. Finché uno veste la maglia del Torino, ha il dovere A di rispettare i tifosi del Torino, però il Torino, i tifosi del Torino secondo me hanno il dovere di incitare tutti quelli che vestono la maglia granata, perché se no significa farsi del male. Se qualcuno ha sbagliato, in questo caso Quagliarella, ha sbagliato ad avere un comportamento, è giusto A che chieda scusa, è giusto che si prenda la responsabilità di quello che ha fatto, ma Quagliarella non ha fatto solo quel gesto sbagliato, ha fatto tante altre cose positive, quindi... Ah, io capisco Ventura, Pier, però se, ovviamente nei limiti della buona educazione e della non violenza, se i tifosi del Toro e i tifosi di qualunque squadra, cui i giocatori non esultano, chiedono scuse ai tifosi avversari, eccetera, per una volta si arrabbiano e prendono posizione, secondo me hanno solo ragione. Questa cosa che devono sostenere solo perché io credo sia una visione un po' da superare. Però voglio dire, Quagliarella deve essere... Allora, con una battuta mi permetto di dire che se Quagliarella deve andare via per come gioca, semmai, non per come esulta. Premesso che quest'anno sta giocando un po'... Cioè, deve essere fatta una valutazione tecnica. Sì, sta giocando male, peggio degli altri anni, per carità. Non si può pensare che uno venga andato via perché non esulta, secondo me. Sì, però non può neanche pensare di fare la scena che ha fatto a Napoli e che rimanga senza conseguenze. Cioè, di che ci stupiamo? Che poi non è l'unico, non è l'unico, insomma, secondo me la valutazione è più complessiva. Poi ovviamente i tifosi del Toro avranno tutto la case history, no? Tutto il file con tutti i 23 gol da ex, tutte le volte che è esultato e quelle che non è esultato, quindi capisco che possa essere una situazione fastidiosa, posso immaginare, sai, Quagliarella è un giocatore che è rimasto, mi ricordo quando è uscito sostituito allo Juventus Stadium, è stato applaudito, quindi posso capire che il tifoso del Toro faccia fatica a identificarlo come una bandiera, però mi sembra che il suo in questi anni l'abbia fatto, ecco, mi sembra che il suo l'abbia fatto. Detto questo, per carità, la protesta La protesta ci sta, ripetiamo, purché sia civile. Perché se Torino vende Quagliarella, no, però, insomma, mi sembra che abbia un problema in più. Questo no, però stupirsi che i tifosi del Toro possano essersela presa, secondo me. Pier, dobbiamo fermarci che c'è il GR. A domani. Ciao Pier. Intanto il Milan ha smentito l'incontro tra Silvio Berlusconi e Lippi. Ma torniamo dopo il GR, ne parliamo. Parliamo anche della Roma. 800 24 00 24. Ciao Parto, ti voglio bene. Non c'è niente perso, ma quando abbiamo delle occasioni come stasera per accorciare sui quattro primi le dobbiamo sfruttare. I 25 primi minuti sembravano che eravamo in questa possibilità, ma al secondo tempo, come ho detto, si è spenta la luce e questo non va per una squadra della qualità della Roma. I risultati condizionano le scelte che riguardano gli allenatori come i giocatori tutti tesserati. Non possiamo limitarci all'analisi di una partita o di un risultato perché sarebbe riduttivo. Noi dobbiamo vedere il lavoro che si svolge. Ci preoccupa molto di più la fragilità che mostra, ad esempio, perché è evidente che anche nell'ultima partita, nonostante le numerose assenze, la squadra ha fatto delle cose buone ma ha dimostrato di non riuscire a portare a casa un risultato. Si sente in discussione giornata dopo giornata, le dà fastidio? Ma questa è l'ultima preoccupazione che ho. L'unica preoccupazione che ho è vedere come migliorare con questa squadra. E intanto siamo ai titoli in coda a Roma. 800 24 00 24, finalmente, con qualche mese di ritardo, ma non per una valutazione su Rudy Garcia, tecnico più o meno bravo, più o meno fortunato, più o meno preparato. Ma perché questo teatrino è andato avanti anche troppo, con la Roma prigioniera del contratto da quasi 6 milioni lordi fino al 2018 e non è da grande club, con la Roma prigioniera del sogno, del progetto di avere Antonio Conte a luglio, ma Antonio Conte piace anche agli altri, piace al Milan, piace al Chelsea, piace forse alla Juventus, anche se mi state mandando tantissimi messaggi 349-238-6666 per scrivermi che i tifosi juventini non rivogliono Conte, ma il tema l'hanno sollevato proprio i tifosi della Juventus qualche settimana fa. Intanto saluto Massimo Caputi, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Capo delle pagine sportive del Messaggero, siamo ai titoli di coda con Garcia, sì? Penso proprio di sì, insomma, anche perché la dichiarazione ultima del presidente Pallotta, che si è dichiarato disgustato, non credo che lasci spazio a Garcia ancora sulla panchina della Roma. Adesso il grande tema è quando verrà presa questa decisione e chi sarà soprattutto il sostituto. Si è perso tanto tempo, si è perso probabilmente un metà campionato e chissà se si fa ancora in tempo, diciamo, a riacciuffarlo per i capelli. Insomma, un allenatore sfiduciato già a giugno poteva essere quello il momento giusto e adatto, invece si è aspettato ancora, si è addirittura attesa e fatta passare la pausa natalizia, si sono giocate altre due partite di campionato, non è cambiato nulla, anzi probabilmente la situazione è ulteriormente peggiorata. Sì, i numeri sono impietosi, una vittoria nelle ultime 7 di campionato dopo il derby, 1 su 10 complessive, l'eliminazione in Coppa Italia dallo Spezia, al quinto posto in classifica, insomma è inutile stare a fare l'elenco delle disgrazie della Roma. Tra l'altro, io non so cosa pensi tu, ma sul tema condizione fisica, che poi è l'ultima pietra dello scontro tra Garcia e Pallotta, io credo sia difficile dare torto all'allenatore. Sì, indubbiamente questa squadra, diciamo, corre poco o forse corre male, però credo anche che una grande componente di questo andamento lento della Roma non sia dettato solo dalla preparazione fisica, ma sia dettato in questo momento anche dalla testa da parte dei calciatori, che sicuramente non è sgombra, e quando la testa non va è difficile che vadano anche le gambe, e oltretutto questi calciatori corrono male, non c'è la Roma non ha una sua identità tattica, è vulnerabile, corrono a vuoto, insomma, quindi ci sono tanti elementi. È chiaro che la preparazione fisica è un elemento, ma è forse l'elemento poi ultimo che decreta, diciamo, l'addio di Garcia, perché nel momento in cui Garcia dice dopo Roma-Milan che la preparazione atletica non va, e la preparazione atletica invece diciamo, il presidente gli risponde che non è un problema, sì, di preparazione fisica, la condizione atletica è molto buona e questo è un fatto, però insomma c'è anche da dire che la preparazione atletica sia molto buona e che questo sia un fatto, forse lo vede Pallotta da Boston o da Miami dove si trova, sì, in questo momento. Lo sai che cosa fa sorridere? È che la Roma penso sia l'unica squadra italiana di tutte le serie, ma io allargherei questo discorso anche all'estero, che da un anno e mezzo non si fa altro che parlare di preparazione fisica. Cioè, abbiamo sentito parlare di benzina nelle gambe, cioè è incredibile. Cioè, oggi, nel 2016, penso che la preparazione fisica è importantissima e ci sono squadre che si avvantaggiano proprio di quella fatta bene. Però, insomma, io non posso credere che oggi la Roma, l'anno scorso e quest'anno, non abbia solo un problema di preparazione fisica, perché sarebbe fare un torto all'intelligenza di tutti. Chi arriva al posto di Garcia? Oggi ci sono due scuole di pensiero, cioè quella che mette Spalletti in pole position e significherebbe forse abdicare al progetto di Antonio Conte a luglio, a meno di non voler poi ripartire di nuovo fra sei mesi, e c'è chi invece pensa al traghettatore. Oggi viene fatto ad esempio il nome di Leonardo. Ma io a quello di Leonardo ci credo molto poco. Credo che la soluzione migliore in questo momento per la Roma è quella di Spalletti, per il semplice fatto che è un allenatore oltre che bravo e preparato, che conosce il calcio italiano, conosce la Roma e il suo ambiente, famoso ambiente romano, e quindi mi sembrerebbe quello più efficace per cercare di dare anche una svolta immediata e in qualche maniera non buttare il campionato. Certo, Massimo, credo anche capace di far funzionare i tanti esterni che ha la Roma, perché poi bisogna fare il conto anche con quello. Sì, non c'è dubbio. Beh, diciamo che quello che potrebbe anche usare al meglio il materiale umano che ha a disposizione, che rimane sempre comunque un materiale di altissimo livello, perché insomma quando le stagioni sono così negative si è portati un po' a buttare tutto a mare, ma insomma la Roma non può essere diventata una squadra di brocchi quando tutta Italia all'inizio della stagione e dopo le prime partite la vedeva come la squadra favorita. È chiaro che in un momento come questo le cose vanno male, ma i giocatori per fare un buon campionato con un allenatore come Spalletti ci sono tutti, questo è fuori discussione. Credo che dopo aver preso Luis Enrique troppo giovane, dopo aver preso Zeman che insomma è stato preso più per accontentare la piazza che non per una reale convinzione, dopo aver indovinato Garcia ma aver sbagliato l'anno scorso, la Roma veramente deve fare grande attenzione a non sbagliare un'altra volta. Sì, tra l'altro sottolineo che con grande leggerezza si pensa che possa essere una stagione di transizione, cioè la Roma, come l'Inter, come più o meno tutte, deve assolutamente almeno centrare, certo, quel terzo posto che significa la Champions League, perché già con la Champions League la Roma ha conti che sono notevolmente in passivo, e quindi se Pallotta poi rifiuta l'idea di una stagione di transizione, io credo sia assolutamente comprensibile. Approfitto di Massimo Caputi mentre mi state scrivendo a proposito della questione Quagliarella, c'è addirittura chi propone di ammonire quelli che non esultano contro la loro ex squadra. Mi sembra una provocazione, ma sono d'accordo perché non se ne può più. Massimo, ti faccio sentire cosa è successo ieri invece intorno al Palermo e cosa sta succedendo ancora in queste ore, perché poi voglio capire cosa ne pensi. La cosa che credo che è venuta fuori oggi, che la squadra ha giocato da sola, la squadra ha vinto, la squadra ha giocato senza aver preparato nel miglior modo possibile la partita, una partita decisiva, una partita che vale 6 punti, non ne vale 3, però la squadra ha dimostrato di avere un cuore e quindi chiunque verrà dopo Ballardini sicuramente potrà poter contare su degli uomini veri. L'abbraccio è stato tra i giocatori, tra lo staff, però si sa che Ballardini ha sempre questi comportamenti che è un po' isolato. Allora, qualcuno dopo Ballardini arriva forse già nella giornata di oggi, perché Zamparini sta facendo una serie di incontri. Io non so, Massimo, cosa pensi tu dell'ammutinamento incrociato, eh? Io non so se tu hai mai visto un allenatore che si rifiuta di allenare, perché questo pare sia successo ieri a Ballardini, e una squadra che lo scarica in diretta, perché questo ha detto Sorrentino. Beh no, questo mi mancava, sì. Nonostante siano un bel po' di anni che sono, che faccio questo mestiere, è la prima volta che capita una cosa del genere. Io credo che quando accadono queste cose la responsabilità stia sempre in testa, cioè nel manico. È ovvio che se si è arrivati a questa situazione, insomma, Zamparini ha le sue responsabilità, però credo che anche un allenatore, seppur contrariato dall'atteggiamento magari dei giocatori o quant'altro, non può, diciamo, ammutinarsi lui stesso prima ancora che lo facciano i calciatori, perché poi alla fine i calciatori si saranno pure ammutinati, però insomma a quantomeno hanno dimostrato e anche senza di lui sono riusciti a ottenere, sì, un risultato importante. Io però vorrei pure chiedere, sì, tu, giustifichiamo tutto e tutti, però insomma pure Ballardini io faccio fatica a giustificarlo, eh. No, ma difatti poi evidentemente insomma ci saranno anche cose che si fa fatica a cogliere, certo, da fuori, certo, ci sono anche dubbio. Cose che si farà fatica a cogliere da fuori, però questa è la situazione. Ripetiamo, Zamparini in queste ore sta facendo una serie di incontri per trovare quello che molto probabilmente sarà il prossimo allenatore del Palermo, il terzo della stagione. Grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie, ciao. A Massimo Caputi. 800 24 00 24, ci sono Pierluigi Brescia, Davide Vicenza, Graziano da Mantova, c'è un amico che scrive 349 238 6666. Stiamo ancora aspettando che parliate del rigore con espulsione di Rugani in Sampdoria Juventus. Ne abbiamo parlato, Roberto D'Andrea, ne abbiamo parlato, era calcio di rigore sull'espulsione, non credo. E per questo anche alcuni tifosi della Juventus ci stanno invece accusando di essere anti-juventini. Pierluigi Brescia. Addirittura anti-juventini. Così, sì. Pierluigi, prego. Salve, buongiorno, complimenti comunque. Grazie. Mi piace come conduce, però devo fare un appunto se mi è possibile. Sì. Cioè, ha detto che all'inizio la Juventus ha perso i punti, ha regalato i punti. Sì, ha regalato, diciamo, una partenza d'handicap, sì. Sì, magari gli hanno regalato qualcosa anche a lei, tipo col Chievo Verona, eccetera, eccetera. Perché poi parliamo, il lunedì parliamo sempre delle stesse cose, ossia era rigore o non era rigore. No, Pierluigi, ma non era il discorso arbitrale, era il discorso che da un certo punto in poi, dalla decima giornata, la Juve sta facendo un campionato a parte. Il tema era, è ancora un campionato equilibrato o ha ragione Sarri a dire che è solo perché la Juventus ha regalato quella partenza lì ad handicap che stiamo qui a discutere, diciamo, di equilibrio? Comunque le altre squadre hanno giocato un attimino meglio e forse sì, qualche per carità, decisione arbitrale un po' particolare, come sempre assistiamo da qualche anno a questa parte, però vabbè, sì, però per Luigi, se devo essere sincero, poi io non mi faccio problemi a parlare di arbitri, mi sembra che quest'anno il fattore arbitrale non abbia ancora inciso, anzi io penso che Mancini ne abbia parlato sbagliando troppo nei mesi scorsi, togliendosi il margine magari per discuterne da qui in poi. Però prego Pierluigi. Partita di Coppa Italia con Torino vergognosa, cioè veramente quell'arbitro lì è da prendere e da togliergli il piede. Sì, che era doveri, l'arbitro che non piace a Mancini. No, sì, però è anche finita 4-0 Pierluigi, quella dobbiamo partita di Coppa Italia. Se facciamo i tifosi diciamo che va tutto bene, però se vogliamo un calcio un attimino diverso, cioè nel senso la squadra, il Chievo Verona va a Milano, merita di vincere, deve vincere secondo me, al di là del fatto che uno possa tifare Milan, Inter, sì, Juventus, eccetera, sì, eccetera, altrimenti non c'è gusto, cioè voglio dire, anche un tifoso che vede vincere una squadra così non c'è gusto. Ieri sera è stato scandaloso secondo me, al di là del fatto che poi alla fine la Juve probabilmente meritava sicuramente di vincere perché gioca meglio. Ieri sera la Juve ha fatto una gran partita per Luigi, sì, poi sì, dopo quell'episodio però, lì sullo 0-2 il Milan ha giocato c'è benissimo stato col Bologna e non l'ha messo la palla dentro, ha segnato il Bologna, sì, niente da dire. Sì, però eravamo sullo 0-2 adesso Pierluigi, noi ne abbiamo parlato un'ora fa di Rugani, così rispondiamo anche agli altri che stanno scrivendo, però era sullo 0-2, quindi va tutto ridimensionato. Davide Vicenza, prego. Grazie, buon pomeriggio. Sì. Vuoi intervenire riguardo gli lamentele? Addirittura Davide, però ti sento malissimo. Facciamo così, Graziano Mantova e recuperiamo poi Davide. Graziano. Pronto. Salve, innanzitutto volevo fare complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. A lei e a Pardo. E, no, per prima cosa volevo sottolineare il fatto che Pardo ha un'altra considerazione dell'Inter. Secondo me è più forse per scaramanzia del fatto che Napoli potrebbe vincere il campionato, Sì. E oltretutto perché personalmente gli è simpatico Mancini, in primo sì. luogo, secondo me. Ma se, si può dire semplicemente che l'Inter sta facendo un campionato sopra, le, sopra quelle che erano sì. le premesse, anche senza sentirsi dire che Mancini, che lo fai perché Mancini è simpatico, antipatico? Cioè, l'Inter lo sta facendo oggettivamente o no, sì. Graziano? Su quello non c'è dubbio, ma credo che le prime due, appunto, in questo caso sono Juve e Napoli, sì. come dice appunto, come dite voi, siano un gradino bello stesso al di là, sopra l'Inter in questo momento. E la seconda cosa che voglio dire è che fortunatamente ho visto il Milan, io sono milanista, ho visto il Milan che giocava con altri giocatori, Nesta, Sedo, Costa, Shevchenko, Inzaghi, e ora dico a quelli, ai miei colleghi milanisti, dico che il momento è questo e bisogna conviverci. E quello che fa Sinisa probabilmente lo farebbe anche Lippi o Capello o Sacchi eccetera. Volevo solo esprimere la solidarietà ai sì. tifosi che credono che cambiando un presidente o un allenatore dall'oggi al domani scambi tutto, ma non è così facile. No, capita qualche volta, è capitato ad esempio al Bologna sì. Con Donadoni, ma molto più spesso le cose continuano ad andare come andavano prima, se non peggio. Grazie. La top 3 delle dichiarazioni, quelle che fanno un po' sorridere del fine settimana, ad esempio Sarri, che non pensava di mangiare nemmeno il panettone. All'inizio della storia speravo di arrivarci alla fine del girone d'andata, cioè nel senso la mia poteva essere una delle panchine più a rischio del campionato. Ma... E poi c'è Buffon sulla nascita del figlio Leopoldo Mattia. Sì, è stata una settimana bellissima. Abbiamo abbinato anche due vittorie, però devo essere sincero che la felicità per quello che è accaduto a me, Ilaria, mercoledì notte, è un qualcosa di unico. Poi Amsic e la sua cresta. Amsic, hai fatto un fioretto per questo titolo d'inverno? Magari ti tagli grazie. La cresta, che qualcosa del genere? No. No, quello non ce la fa proprio. È troppo brutto senza. Troppo brutto senza. Oh, c'è un amico che scrive: la Lazio che ha battuto in casa Inter e Fiorentina sarà la mina vagante. Può essere, può essere. Paolo da Reggio Emilia. Paolo. Sì, sono io. Eccoci. Niente, io telefonavo che sono di Reggio e tifo reggiana. Però ultimamente vado a vedere sempre anche Sassuolo. Sì. E sono tifoso anche della Juventus. E non parlate mai del Sassuolo che ha battuto le squadre importanti come Juve, Inter, Napoli. Sì, Sassuolo fortissimo, tra l'altro tutt'altro che casuale, perché dietro Sassuolo infatti, ci sono investimenti, c'è un progetto tecnico, c'è un grande allenatore, ci sono sinergie con grandi club, ad esempio quello della Juventus, intanto è arrivata la notizia, ma ve lo avevamo anticipato, Zamparini ha esonerato Ballardini, il nuovo allenatore del Palermo, il terzo della stagione è Fabio Viviani. Prego Paolo. Niente, volevo, sì, anche se sono tifoso della Juventus, mi fa piacere tifare il Sassuolo che fa un ottimo campionato e parlate anche del Sassuolo. Sì, ma ne parliamo, non ti preoccupare, siamo anche nel palazzo giusto, ti ricordo che al piano di sopra c'è il presidente Squinzi. E quindi è bello vedere anche Serie A Reggio che da tanti anni che ci manca. Sì, certo, a patto di non trattarla come una provinciale qualsiasi, Paolo, perché ripeto, è un progetto diverso. Poi Giovanni, Milano. Sì, ciao, io allora posso darti del tu? Sì, prego. Allora, premetto che sono juventino. Sì. Innanzitutto vorrei che tu dicessi, non parlassi, tipo dicessi che tutti i juventini non vogliono Conte, quelli non sono juventini, dai, perché è un allenatore che dal settimo posto ti fa vincere tre scudetti. Io ti sto leggendo i messaggi che arrivano, Sì, sì, sì, no, hai ragione, però sono quei quattro juventini che di calcio veramente ne capiscono poco. Poi vorrei anche dire, io sono juventino, però sarei contento se vincesse il Napoli, perché comunque è la squadra che gioca meglio, però non lo so, perché questa Juve è sempre, come dite voi, molto cannibala, quindi fa paura. Però e vorrei anche dire ai milanisti che l'unica soluzione che hanno è prendere Antonio Conte, perché è l'unico allenatore al mondo che con quattro pecoroni vince lo scudetto. Sì, il problema è che è l'unica soluzione per tanti, ho l'impressione, perché ci sta pensando anche la Roma, ci pensano anche altre squadre. C'è anche un amico che ha scritto che Conte va via dalla nazionale perché sa che non potrà mai qualificarsi per i mondiali del 2018. Speriamo di no. Saluto Eva Ruggeri, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché buongiorno. Dopo di noi c'è una puntata speciale, perché oggi è un giorno speciale per chi ama la musica. Sì, triste. È un giorno, un brutto giorno per chi ama la musica. È morto David Bowie, lo sapete, quindi noi faremo a caldo una puntata del Falco il Gabbiano che precederà invece le puntate in cui racconteremo veramente la vita di David Bowie. Questa sarà una puntata di racconti, di sensazioni immediate che condividerò anche con alcuni ospiti. Ovviamente ti chiami Enrico, non Ivan Ruggeri. Quello è Zamorano. Hai assorbito la delusione del Sassuolo? Beh sì, insomma, può succedere, la palla non è... Io l'ho vista già male dopo i primi due gol sbagliati nei primi minuti, sono quelle partite stregate, può succedere. Ma tu sei d'accordo con Mancini che ce l'hanno un po' sugli arbitri con l'Inter? Beh, insomma, tu sai che a lui non piaceva neanche la designazione di Dovini. Sì, beh, in effetti... Diciamo che insomma, l'Inter non è certo una squadra proverbialmente favorita dagli altri. Invece secondo me sbaglia questa volta Mancini, perché insomma lo stiamo dicendo, l'Inter sta facendo comunque un grande campionato. Allora, noi ci fermiamo qui, dopo di noi il Falco e il Gabbiano con Enrico Ruggeri, puntata speciale su David Bowie. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binder, redazione, Gianmarco Ferronato, Roberta Fresani, regia. Domani torna Carlo Genta dopo il GR delle 14, adesso il Falco e il Gabbiano. Ciao.